Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cacciaviti, frullini e piccoli trapani entrano nelle nostre abitazioni portando via spesso poco, ma quanto serve per farci sentire minati nella tranquillità delle mura domestiche. Convinti e disposti a tutto pur di svaligiare decine di appartamenti e di piazzare la refurtiva sul mercato della ricettazione di Bari e della Campania. Oggi la conclusione dell'indagine con 11 provvedimenti di custodia cautelare in carcere. In manette sono finiti 2 georgiani, un lituano, un bulgaro e 6 italiani di Bari, Molfetta e Bitritto. All'appello manca una persona. So che l'umanità è attraversata da problemi di respiro internazionale, ma so altresì che nella propria individuale sfera familiare personale esiste ancora una piccola e trascurabile problematica che attraversa, ahimè, comunemente tutti i comuni mortali, che è quella delle persone che ti entrano in casa e ti rubano. Ne ho parlato più volte, non è in questo momento all'onore di essere al culmine delle cronache, perché ci sono altri argomenti che colpiscono più l'immaginario, queste cose vanno per flussi. Però mi ha, diciamo, interessato questa mattina una pagina che è uscita sulla cronaca di Repubblica, che mette insieme due fattispecie molto vicine all'aspetto della relazione. L'una è l'uso di WhatsApp. WhatsApp è l'applicazione che ormai chiunque ha nel proprio telefonino, che permette velocemente di scambiarsi messaggi gratuitamente con altre persone, scambiarsi file, scambiarsi foto, scambiarsi messaggi sonori. Insomma, è, diciamo, la killer application che da un piccolo garage dove lavorano pochissime persone ha invaso i telefoni dell'umanità. Molti usano l'idea di fare dei gruppi su WhatsApp, lo fanno le mamme per organizzare la pizzata con i bambini, lo fanno i marpioni puttanieri per organizzare le loro uscite serali, lo fanno le signore e signorine per organizzare le loro uscite di shopping e via dicendo. I gruppi di WhatsApp hanno varie funzioni ludiche, utili, aggreganti, molte volte servono soltanto a farti suonare di notte il telefono, c'è gente che si scambia faccine, emoticon e cose inutili. Però in un municipio di Roma, nel nono municipio di Roma, hanno messo a punto e messo insieme la maniera per comunicare velocemente, istantaneamente da parte di un gruppo di persone e l'ansia comunque di avere in qualche maniera presidiata la propria area privata, il proprio appartamento. Perché un gruppo di vicini hanno pensato di mettere su un sistema che si chiama controllo del vicinato e reciprocamente si segnalano l'un l'altro tutto ciò che accade di strano, di singolare nel loro condominio e nel loro quartiere. E pare questa cosa funzioni. 800240024. Avete mai pensato a qualcosa di simile? Di usare WhatsApp per ricreare una sorta di catena virtuosa fra persone che magari si conoscono soltanto perché si scambiano il buongiorno e la buonasera nelle scale di casa, ma magari potrebbero essere delle pedine utilissime per darvi quel margine di sicurezza e di serenità in più che nessun sistema di antifurto riesce comunque ad assicurarvi, come abbiamo più volte visto nelle nostre trasmissioni. Francesco Caccetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Francesco Caccetta è un criminologo, è uno dei tre personaggi che hanno ideato questa iniziativa che si chiama Controllo del Vicinato, anche un sito controllodelvicinato.it. Cerchi di farci capire innanzitutto il luogo fisico dove è nata l'idea e soprattutto come funziona. Allora, Controllo del Vicinato in Italia nasce a Carono Pertusella, in provincia di Varese, su idea di una persona che si chiama Gianfrancesco Caccia, che ha subito un tentativo di furto in Inghilterra e sventato appunto dai Neighbor Watch inglesi. E quindi, curiosito da questa attitudine, da questa abitudine di queste persone, l'ha importato in Italia e ha cercato di mettere su anche nel suo territorio, nel suo comune, questo gruppo di persone, di vicini, che facessero attenzione un po' a quello che capitava nel loro ambito, insomma, nella loro... In sintesi è un gruppo su WhatsApp, come tanti. No, assolutamente, infatti ci tengo a fare questa precisazione perché quello che ho letto sull'articolo di Repubblica, che è un bell'articolo, insomma... Beh, ma hanno fatto una pagina, ragazzi, la gente si vende la sorella per avere una pagina su un giornale, quindi state contenti. Serve a lanciare l'idea del concetto del controllo vicinato, che però va al di là del gruppo su WhatsApp, perché il gruppo su WhatsApp potrebbe in qualche modo così allontanare la vera anima del controllo vicinato, che è questo sodalizio fra cittadini, i quali si mettono appunto insieme per controllare il proprio territorio e imparare a fare delle segnalazioni qualificate alle forze dell'ordine. Senta, mi faccia capire, tanto per onde fugare ogni dubbio iniziale, è qualcosa di diverso, sì, rispetto a quelle ronde che si facevano coi vecchietti col giubbottino trasparente che andavano di notte, che erano ridicole, sì. Assolutamente il contrario, noi bandiamo le ronde, il controllo del vicinato è contro le ronde, nasce proprio in risposta alle ronde, nel senso che il controllo del vicinato non richiede la partecipazione attiva dei cittadini, perché ci sono le forze dell'ordine che devono fare il lavoro. Cioè non è che si va in giro col trottore, ma si va in giro col telefonino e si comunica. Assolutamente, il controllo del vicinato è questo sodalizio di cittadini che controllano il territorio, sono formati, perché non è che sono improvvisati, perché questo è importante. Il gruppo di WhatsApp non è altro che l'utilizzo della tecnologia per mettere in atto il controllo del vicinato. Quindi c'è un'azione preventiva di formazione e sensibilizzazione, perché non credo che uno dà il proprio telefono a chiunque, dice mettiamoci nel gruppo e segnaliamolo. Ci sarà un coordinamento? Assolutamente. Il controllo del vicinato prevede la figura di un coordinatore, che è quello che poi ha curato la parte iniziale della formazione, quindi dell'incontro con i cittadini, ai quali viene spiegato il progetto di prevenzione furti e del controllo del vicinato, che va al di là pure dei furti perché prevede una serie di innumerevole di reati, e questi cittadini vengono formati. Mi viene in mente anche lo stalking, la molestia, le attenzioni improprie verso i bambini, infatti un'infinità. Ci vogliamo allargare anche il terrorismo, perché qualsiasi movimento sospetto viene individuato, notato dai cittadini, che di solito vedono sempre delle cose che non possono vedere le forze dell'ordine, perché logicamente il ladro non è che sta lì a farsi vedere dalle forze dell'ordine, no, mentre invece i cittadini abitualmente lo vedono. Il delinquente è abituato all'indifferenza che regna sovrana in Italia da un bel po' di tempo e quindi agisce approfittando di questa situazione. Allora, si fermi un attimo, Francesco accetta, già arrivano le prime telefonate, vedo che il sistema funziona, poi ci spiegherà bene come viene coordinato e chi si prende poi la responsabilità di gestire questa cosa qua. 800240024, il numero verde, avete mai sentito parlare di questo sistema di controllo organizzato del vicinato? Ciro, buongiorno. Sì, buongiorno, io chiamavo perché ho esperienza diretta negli Stati Uniti di una cosa che ormai funziona da decenni, direi, è il neighborhood watching. Praticamente all'ingresso dei quartieri residenziali c'è un cartello che avvisa di essere consapevoli che c'è un controllo appunto del vicinato, questa è la traduzione letterale, e io ho potuto constatare che in città come Denver, piuttosto che Salt Lake City, ci sono le macchine parcheggiate fuori casa di notte con le chiavi inserite e finestrini abbassati, nessuno si azzarda o si sogna di toccare niente. C'è anche una situazione abitativa forse un po' diversa dalla nostra, lei parla di comprensori, ecco, controllati. Però ecco, una linea diretta, non con il 911 l'emergenza, ma anche solo l'ufficio dello sceriffo, e c'è un intervento immediato delle forze dell'ordine ove appunto ci sia una verifica di un qualcosa di anomalo o dei movimenti sospetti o delle persone strane a quella che è la routine del quartiere che fanno qualcosa di sospetto. Questo non vuol dire le ronde o la psicosi, però un controllo reciproco di chi abita nell'interesse di tutti, e le cose veramente funzionano. È un senso civico, diciamo, anche io se vedo qualcosa che mi sembra sospetto lo segnalo senza creare allarmismi, ma mi prendo la responsabilità di essere una parte della comunità, se no ognuno. Beh, io posso dire, abito in Brianza, abito in una via a senso unico, molto spesso ci sono macchine che per evitare una rotonda entrano contromano. Visto che ci sono bambini, parchi vicini o altro, chiamo la polizia locale e dico mandate una pattuglia perché qua alla talora c'è gente che guida in modo pericoloso e qualcuno l'hanno pure beccato. Mi viene in mente che da 3 giorni sotto casa mia c'è un furgone parcheggiato sulla rampa per il passaggio delle carrozzine degli handicappati. Nessuno dice niente, sta lì parcheggiato, tranquillo. No, da noi grazie a Dio qualche riscontro c'è, ma è una questione di civismo. Se si martellano gli uffici preposti qualcuno poi si muoverà, se no poi basta fare i rilievi giusti alle persone giuste, e se qualcuno non è lì solo a scaldare la poltrona a prendere lo stipendio a sbaffo, magari qualcosa si muove. Se uno non inizia non si comincia a creare la crepa nel muro, altrimenti andiamo avanti come andiamo avanti e chi se ne frega. Non è così che deve funzionare. Grazie Ciro che ci ha allargato la nostra esperienza. Torno a Francesco Caccetta, ricordo che è il criminologo che ha ideato insieme a altre 2 persone questo controllo del vicinato. Mi spiega, Caccetta, come fate a evitare, diciamo, l'allarmismo, il mitomane, quello che comunque vede dappertutto persone sospette? Ci sarà una scrematura da fare comunque? Allora, intanto confermo che anche noi abbiamo in Italia la questione dei cartelli, perché il controllo del vicinato prevede appunto un programma che parte dalla formazione dei cittadini, in questo caso rispondo alla sua domanda, i cittadini che intervengono agli incontri vengono formati e gli viene spiegato come fare le segnalazioni quindi segnalazioni qualificate, e soprattutto a quello che non devono fare, viene insegnato cosa non devono fare, quindi non fare assolutamente nessun tipo di intervento di iniziativa, non affrontare mai i delinquenti, non prendere mai iniziative che vanno al di là della semplice osservazione e comunicazione. Quindi questa è la cosa più importante. Diciamo che gli strumenti odierni che abbiamo ognuno di noi a disposizione sono formidabili, che basterebbe fare la foto di un'auto sospetta e mandarla alle persone giuste senza creare naturalmente attentati alla privacy, cioè non diffonderla, già è una grossa informazione. Ma certo, guardi, questa poi la concessione della privacy è molto particolare, perché prendere una targa di una persona sospetta e chiamare il 112 o il 113 non significa violare la privacy di nessuno, ma significa fare una segnalazione. Guardi, lei parla con una persona che ha postato su Twitter le foto delle macchine parcheggiate impropriamente nei parcheggi dei disabili, prendendomi la responsabilità. Non è questo. Alberto, buongiorno. Buongiorno caro, buongiorno. Senta, io mi volevo complimentare con questo argomento che sta trattando, è bellissimo. Guardi, l'unica, una delle poche possibilità che abbiamo per difenderci dai ladri è quella di cercare di cominciare a guardarsi tra di noi e vigilare sulla nostra zona. E questa è perché inutile, le forze di polizia non possono essere davanti a casa mia, davanti a casa sua. Allora noi invece, abitando nel quartiere, vediamo se vogliamo le cose strane e le segnaliamo, capito? Come dice però il nostro ospite, non può essere che tutti segnalano tutto, perché sennò diventa una gran confusione e si confonde lo spirito. Mi sembra di capire, qua siamo di fronte a un programma strutturato, organizzato, con persone comunque impiegano parte del loro tempo e le loro risorse alla formazione e alla creazione. In Italia dove stanno funzionando questi centri, Caccetta? Allora, intanto adesso abbiamo già 25 comuni attivi, soprattutto nel nord Italia, e poi uno in particolare che è quello che ho iniziato io, a Castel Ritaldi in Umbria, in provincia di Perugia, un paese di 3.300 abitanti. E poi ci sono già, siamo intorno a un centinaio di comuni che hanno già chiesto di iniziare il progetto. Allora, fermiamoci un istante, devo dare le informazioni del traffico, riprendo tra un istante con Francesco. Prego. Caccetta, mi piacerebbe capire anche se ci sono altri posti in Italia o altre persone che si sono in qualche maniera organizzate con questo sistema di controllo virtuoso, che mi sembra ben distante da quelle organizzazioni e iniziative a volte anche molto folcloristiche, che lasciano molto perplesse le persone che improvvisamente si trasformano in guardie quando guardie non sono. Qua mi sembra un passo graduale ma strutturato. Melog. Cronache meridiane. Siamo questa mattina mettendo in luce un aspetto abbastanza poco conosciuto, perlomeno poco filtrato attraverso i media nazionali, che è quella di un'organizzazione di controllo capillare del quartiere attraverso gruppi di cittadini formati, organizzati, per nulla affidati allo spontaneismo o all'impeto, che tengono sott'occhio la zona, ognuno per la parte sua, e segnalano comunemente tutto ciò che può essere sospetto, fastidioso, irregolare. Poi se questa segnalazione ha un suo effetto concreto e pratico, ce lo dirà fra poco il nostro ospite, se comunque la segnalazione era semplicemente un eccesso di prudenza, non succede nulla, nessuno ne esce malconcio. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Conosce anche lei questo tipo di attività? Sì, io abito a Romano di Lombardia e stiamo organizzando un comitato per il controllo del vicinato insieme ad altre persone. Come è venuta l'idea? Da chi è nata? Perché voglio capire come nasce. Sostanzialmente l'idea era già del promotore che si chiama Mario Suardi ed era anni che lo voleva organizzare, ha trovato poi su internet delle informazioni approfondite, ovviamente abbiamo fatto riferimento al responsabile regionale e in questo modo abbiamo iniziato a fare dei primi incontri, confermo che c'è una fortissima attenzione alla formazione delle persone, nel senso a capire qual è in realtà il ruolo che è un po' la partecipazione civile alla vita sociale. Sostanzialmente l'idea di dire se fai un giretto col cane non farti sostanzialmente solo il giro col cane, ma guarda se il tuo normale ambiente è sempre lo stesso, quindi se provi una macchina che non hai mai visto, banalmente ci sono anche la conoscenza del fatto che ci sia una app gratuita da scaricare, perché uno può controllare se la macchina banalmente è rubata o semplicemente senza assicurazione. A me viene in mente una cosa, mi scusi, io ho una mente a volte maliziosa, ma non è il rischio che andate a incappare anche poi in qualcosa che nulla di criminoso, ma che vuole essere mascherato dalla giusta riservatezza? Se la macchina fosse di una signora, va a trovare un signore, o di un signore a trovare una signora, che tutto vorrebbe in quel momento meno che di essere segnalato, come vi cautelate dal fatto di andare poi a pestare i piedi a qualcuno che non fa niente di male, ma fa cose che comunque vuol tenere riservate? Questo accade in un condominio, potrebbe uscire la moglie o il marito, potrebbe entrare qualcun altro, fatti loro. Vero, diciamo che non vorrei che lo zelo andasse oltre quello che è poi la prevenzione della criminalità. No, beh, quello sì, però tendenzialmente le informazioni che ci hanno dato, per esempio, sono state quelle: il primo controllo prima di, come dire, dare falsi allarmi e vedere se la macchina banalmente non è rubata, già se è a un livello di pericolosità tra virgolette inferiore, ok? Perché il ladro generalmente non va a fare il furto con la propria macchina. Certo, sì, ma, sì. Ma in realtà, partendo da qua, poi si risviluppa tutta la rete sociale, per cui le dico una stupidata: una delle persone che ha iniziato a partecipare a questo gruppo ha dato il proprio numero di cellulare alla vicina, e ovviamente viceversa, ma semplicemente con lo scopo di dire: se ti suona l'allarme ti chiamo. Beh, questo è abbastanza normale, questo lo faccio anch'io, è banalissimo, ma la famiglia che ha il portone accanto al tuo è giusto che abbia il tuo telefono, può succedere di tutto. È proprio questo il secondo me la parte interessante, cioè nel senso che uno non deve cambiare le proprie abitudini, ma deve ricostruire, come dire, il normale tessuto sociale. Io mi ricordo quando vivevo in condominio, in realtà quando entrava una persona, come dire, c'era una sorta di radiografia, per cui quando era piccolo gli si chiedeva: sei il figlio di chi? Da chi vai a giocare? Adesso sì, molte volte però uno può avere il diritto di non dire dove va e da chi va, sono fatti suoi. Sono i portieri che ti fanno la radiografia perché vogliono capire chi sei, dove vai. Non sempre uno va a fare cose illecite, ma va a fare cose anche riservate. Ma ci mancherebbe. Il problema, per esempio, è che lo stesso condominio adesso, come dire, mia mamma che continua a vivere nello stesso condominio, in realtà non si conoscono più i vicini, no? Quindi si sono un po' interrotte le normali comunicazioni. Allora, fermo un attimo, sentiamo, perché adesso devo dare spazio a quella che è l'ala del dissenso, quelli che reputano che questo tipo di attività non sia perlomeno consona ai loro gusti, alla loro sensibilità. Luigi non è contento. Sì, buongiorno, la ringrazio di avermi dato questa possibilità. Io chiamo da Napoli, sono napoletano e sono tassativamente contrario. È una cosa allucinante questa idea, perché noi paghiamo l'ira di Dio di tasse e pretendo assolutamente che le forze dell'ordine ci tutelano. Un anno fa ho subito un furto in casa di 2.300 euro, è andato tutto a pallino, non se ne è parlato più, niente, zero. Cioè, noi non siamo tutelati con l'ira di Dio di tasse, ma perché questa idea di incanalarci su questa strada? Ma da dove parte, punto di domanda? Ma penso che parte, adesso ci risponderà Caccetta, dalla necessità comunque intanto di fare qualcosa. Lei capisce che nessuno può avere un poliziotto sotto ogni portone H24, questo è impensabile. Ridare l'idea che possa esistere un senso civico di appartenenza a una comunità, per cui un problema del vicino diventa problema tuo, non mi sembra sbagliato, non mi sembra un sistema che va a supplire alle forze dell'ordine. Rocco, buongiorno. Buongiorno, sì. Io purtroppo ho diverse perplessità in merito a questo argomento. Si esprima tranquillamente. Innanzitutto mi ricorda qualcosa che purtroppo non ha avuto risultati piacevoli in certi regimi non molto democratici. Assolutamente vero, sì. Vero. Questo sistema di controllo da parte della cittadinanza nei confronti degli altri cittadini è qualcosa che onestamente mi lascia un sapore in bocca che non riesco proprio a digerire. Sarà un retaggio ideologico di quelle delle mie idee, ma così è. No, ma sono pensieri che passano. Diciamo, tutte le dittature si basano su una sorta di apparato spionistico spontaneo che comincia a dire: il vicino di casa oggi ha messo un cappotto nuovo, come esatto. Mai? Sì, è chiaro, c'è questo rischio. È facile poi travisare e interpretare nel modo scorretto un certo tipo di... Ma è giusto dirlo. Secondariamente, l'altro aspetto negativo in cui vedo, mi sembra un tentativo da parte delle forze, da parte dello Stato, di delegare ai cittadini dei compiti e delle mansioni che non è che non può ottenere semplicemente perché lo Stato non è in grado di presidiare, perché in realtà il presidio del territorio non è l'unico sistema per limitare la delinquenza, anzi, parlarne come dell'unico metodo è estremamente riduttivo, perché la delinquenza va prevenuta e non contrastata e basta. Lecito che lo dica, io l'unica cosa... Se potesse servire soltanto a far abbassare un attimo il livello di totale indifferenza, secondo me avrebbe un senso. Anch'io molte paura pensando che ogni mio passaggio venga registrato da un vicino, esatto, che comunque, certo, se un giorno mi vede passare con un atteggiamento che lui non reputa consono a quello di un buon padre di famiglia, dovrebbe segnalarlo alla rete: guardate, oggi Nicoletta è tornata a casa, ballava e cantava, una bottiglia in mano. Io posso, posso anche tornare con la bottiglia in mano se mi va a casa. Ecco. Io la tiro ad indovinare, ma sono pronto a scommetterci che negli Stati Uniti, visto la facilità con cui circolano le armi, ci sono già stati episodi spiacevoli legati a questa situazione. Sentiamo Francesco Caccetta, lei la conclusione, che diciamo è il criminologo che ha lanciato questa idea. Le perplessità ci sono, in una battuta, come fuga questo tipo di perplessità? Sì. Allora, intanto bisogna sfatare questo luogo comune di confondere il controllo del vicinato col controllo del vicino. Non c'entra assolutamente niente, non sono i vicini che si controllano a vicenda, sono i vicini che tutti insieme controllano il proprio quartiere, il proprio territorio, dalla presenza di persone sconosciute e potenzialmente autori di reati. Non c'entra niente il controllo del vicino, nessuno guarda quello che fa il vicino, sono i vicini insieme. Però che è logico che le persone succede. Fanno anche qualche domanda. E ci si sente con una rete in più addosso di controllo, parliamo per discuterne. Bisogna fare, sì, ma sono d'accordo, ma bisogna fare anche delle valutazioni rispetto a il rapporto fra privacy e sicurezza. Lei lo sa benissimo che più aumenta la privacy più diminuisce la sicurezza e viceversa. Lo sa cosa mi tranquillizza? Mi tranquillizzerebbe comunque sapere che comunque questo è sotto controllo di qualcuno che si prende una responsabilità di questa macchina. Lasciate a se stessi, i vicini non mi danno nessun tipo di affidamento, perché veramente saremo alla segnalazione di ogni respiro dietro il fondello di visione. I vicini fanno le segnalazioni alle forze dell'ordine, ripeto, alle forze dell'ordine, soltanto di movimenti sospetti che possono essere prodromici di un reato. Solo quello, non è che chiamano il 112 per dire c'è una persona, c'è il mio vicino con la bottiglia di whisky in mano. Assolutamente no. Semmai tequila, semmai nel mio caso. È un tentativo di recuperare il capitale sociale. Anche perché, guardi, capita sociale... molto spesso, noi abbiamo fatto trasmissioni sullo stalking, persone che sentono massacrare a colpi d'accetta la moglie e il vicino accanto e non fanno manco una telefonata. Ma guardi, questa è la sindrome genovese, non so se lei ha mai sentito parlare di Kitty Genovese, che era stata uccisa con 30 minuti di agonia e 38 persone che avevano assistito a tutto, tutti pensavano che qualcuno avesse chiamato e non ha chiamato nessuno. Sentiamo un attimo Marco. Marco, buongiorno. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco. Niente, io faccio il poliziotto da 22 anni e lavoro in pattuglia, in strada. Io confermo il nostro consiglio che diamo sempre alle persone quando andiamo a fare i sopralluoghi di furto nelle abitazioni, dopo che hanno subito un furto, è quello comunque di segnalare quando vedono veicoli strani, personaggi strani, facce che non conosco. Tante volte ci sono dei quartieri residenziali dove non c'è traffico di passaggio, è solo gente residenziale, e tante volte purtroppo ci è capitato di vedere dopo, di sentire dopo dai vicini: ah, io ho visto quello lì, è passato, ha suonato, ha scavalcato il cancello, pensavo fosse un parente, bastava una piccola segnalazione e sicuramente il furto sarebbe stato sventato. Quindi lei, linea di massima, in quanto operatore, diciamo, delle forze dell'ordine, sarebbe propenso a dei cittadini che seriamente si organizzino a darvi delle segnalazioni che non siano soltanto perdite di tempo? Ecco, l'organizzazione dopo possono esserci altri problemi. Noi incentiviamo sempre la comunicazione singolo cittadino per singolo cittadino. Dopo nell'organizzazione c'è il rischio che ci vada a finire anche personaggi... La politica, queste cose qua. Personaggi che non sono molto puliti, ecco. Ha capito? Semmai c'è la persona che... quel giorno lì sa che è di turno lui, diciamo, a fare la vigilanza del quartiere, e semmai è la persona che non è a posto, e semmai dà l'input lui. Non lo so adesso, non so esattamente. Sì, lei dice, diciamo, che potrebbe essere strumentalizzata la persona che hanno tutto l'interesse a... Sì, soprattutto in certi quartieri. Però, insomma, quando escono alla luce del sole e si dichiarano nome e cognome, uno almeno può controllare. Sì, certamente. E questo è il caso di questa mattina. Grazie, a presto, a domani.